Onorevole Crispi, onorevole Guerzoni, benedetto, fratello mio, e voi, membri del Comitato di Soccorso per l'Affrancamento di Roma, ascoltatemi. È l'ora di far crollare la baracca pontificia. Non c'è più tempo di indugiare. Le truppe di Garibaldi sono ormai vicine alle mura aureliane. Ma prima che le camicie rosse attacchino, è indispensabile che nasca una sollevazione dall'interno di Roma. In città si sta già organizzando un gruppo di uomini, ma sono poco armati e sono pochi. Dobbiamo rifornire Roma di giovani. Andremo noi, io e mio fratello Enrico, a portare armi e uomini, così da far scoppiare l'insurrezione della gente di Roma, perché essi da soli non lo faranno mai. No, no, egregi patrioti, no, non sto facendo un torto alla popolazione romana. Tutti sanno quale depressione subisca l'animo di un popolo che tanti anni fu soggetto a dispotico governo, e tanto più se tale governo dispotico è clericale. Molti giovani romani sono stati arrestati, molti altri espulsi dalla città, e tanti sono gli esiliati romani che vogliono far parte della nostra banda. Accogliete dunque la nostra proposta. Possiamo radunare una squadra di oltre 70 uomini, tanti quanti sono i revolver a nostra disposizione. Partiremo da Terni nel più breve tempo possibile. Ci metteremo in marcia per varcare il confine a Passo Corese. Una volta arrivati sulle rive del Tevere, troveremo le barche piene di fucili. Ci imbarcheremo e, navigando sul fiume, ci porteremo fino alla foce dell'Aniene. Lì ci fermeremo ad attendere che i nostri amici romani ci informino su come passare le mura. Nel frattempo, se tutto sarà andato secondo i piani, in città dovrebbe già essere scoppiato il moto e noi sentiremo il rumore degli spari. Con il nostro arrivo, vedrete, anche la popolazione di Roma insorgerà e Garibaldi potrà entrare in Roma con i suoi soldati. Egregi patrioti, abbiate fiducia in noi. È un'impresa rischiosa, ma non imprudente. E se tutto andrà secondo i piani, fra pochi giorni Roma sarà libera. Lo dobbiamo all'Italia, che vuole la sua capitale, ma lo dobbiamo ai fratelli romani, che aspettano con trepidazione il nostro arrivo. Lo dobbiamo ai tanti romani esuli che combattono al nostro fianco con la camicia rossa. Firmato Giovanni Cairoli. Sonetti in dialetto romanesco originali, che dopo il Belli pare impossibile, ha trovato modo di farne Cesare Pascarella, con il poemetto Villa Gloria. Dice Giosuè Carducci: non è il poeta che parla, è un trasteverino che vide e fece, perciò l'epos nasce naturale e non per convenzione, nella forma dialettale. Non mai poesia di dialetto italiano era salita a questa altezza. La sera del 20 ottobre 1867, insieme a Enrico Cairoli, Righetto, e Giovanni Cairoli, Ninetto, una banda di 70 uomini si raduna a Terni e si mette in marcia verso Roma. Sono ragazzi di 20 anni, sono venuti dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto. Qualcuno arriva dal sud, qualcuno è romano. Eh sì, perché mica tutti i romani stavano dalla parte del Papa. A Terni, dove fu l'appuntamento, Righetto ci schierò in una pianura e lì ci disse: «Il vostro sentimento lo conosco, ma non c'è da aver paura. Però, dice... compagni, barimento che st'impresa di noi non è sicura. E Roma la vedremo per un momento, per cascamorti giù sotto le mura. Per questo, prima di piar fucile, se qualcuno di voi non se la sente, lo dica e sorta fora dalle file. Dice: non c'è nessuno che la pianta?» E siccome nessuno disse niente, dopo pranzo partissimo in 70 e marciassimo fino alla mattina del giorno appresso. Tutta la nottata. All'alba poi fu fatta una fermata sull'erba zuppa fracica de brina. Traversassimo un fiume di rapina. Lassassimo la strada. E traversata una macchia se sboccò su una spianata e venissimo giù per la Sabina, dove che de dietro a noi c'era per scorta... non i bussetto. E tutto sganghenato, dove uno ci montava un po' per volta. Per strada, il cielo, ce se fece cupo e venne l'acqua che non ci ha lassato. Finché non siamo entrati a Cantalupo. A Cantalupo, drento una chiesola, Righetto ci divise in 3 sezioni. E dopo averci letto l'istruzione fece... Ripeto un'altra cosa sola. Sì, tra voi c'è qualcuno che ci riola, lo dica e non si metta a soggezione. Nessuno ha rifiatò, fece... Benone, vedo che siete tutti de parola. Ma perché non ci sia nessuno in toppo, è inutile sta a mezze parole. Se io morissi, c'è l'altro che vi addoppo. E lì de nuovo tutti in marcia. Al fine caricassimo tutte le pistole e a Corese passassimo il confine. E all'Arba, mentre c'era un temporale, Rivorno da Firenze li cassoni, dove c'erano dentro i fogoni de quelli della Guardia Nazionale. Furno depositati in d'un casale e dopo, assieme all'altre munizioni, li portassimo Trento a 2 barconi presi da un capopresa padronale. E fatto il carico, sopra ogni barcone ci fu messa la legna e fu ridotto come quelli che portano il carbone. In modo che ognuno non ci capisse niente. Dopo s'accucciassimo de sotto e venissimo in giù con la corrente. Avanti a tutti, dentro una cozzetta, come stessero lì a guardare il carbone, c'erano li carioli de vedetta e noi antri giù a fondo nel barcone. Sentimo dalla riva la trombetta delle truppe del Papa. A Teverone, verso notte, se scenze, e ogni sezione fu dislocata dentro una barchetta. E ma ricordo che una era tarlata e che Corsego e con gli stracci pisti lì sulla riva fu calata fata. Dopo annassimo dagli doganieri, li legassimo tutti come cristi e furono fatti tutti prigionieri. Dopo fatta sta prima operazione, lì ci si fece notte in mezzo al fiume. C'era nell'aria come un'oppressione de fracico e una puzza de bitume. E non si sentiva che scrocchiare il timone per un impantanasse nel pantume. E verso Roma, in fondo all'estensione, si vedeva rilucè come un lume. Un lume che sul cielo era un chiarore. E lì per fiume, in quel silenzio tetro, for che l'acqua, non c'era altro rumore. E fu alla campagna, all'aria queta, de notte, e il cupolone de San Pietro pareva di toccarlo con le dita. Sangue della Madonna che è nottata. Quando che mi ritorna alla memoria mi pare come un pezzo di una storia che qualcuno mi avesse raccontata. Avemio da sta Roma a far l'entrata per trovarci la morte o la vittoria, e invece, il giorno dopo a Villa Gloria, destino. Basta. Sotto alla spianata a mezzanotte, in mezzo alla corrente se fermassimo, pa' aspettare chi viva. Aspetta, aspetta, aspetta, niente, niente. Riguardassimo bene dell'intorno, manco un'anima. Annassimo alla riva, per aspettare che ci si facesse giorno. E all'Arba fu smontato dal battello, e piano piano, senza muovere un dedo, perché non si scoprisse il Machiavello, s'agguattassimo dentro un canneto. Dopo, Righetto fece col fratello. Andate in 5 su per sto querceto e scannaiate un po' per sto stradello se ci fosse un ricovero segreto. Che saremo a vedere quel che succede. Intanto lì ci si potrà rimanere finché qualcuno non se faccia vede. E mentre andammo sopra, intorno intorno, si sentivano battere le campane di Roma che ci davano il buongiorno. Per la macchia trovammo un frattarolo. Faccia a terra per Cristo! Poveretto. L'intorcinammo dentro al ferraiolo e gli appuntammo le pistole in petto. E lì, nel mentre lo daremmo stretto, Giovannino gli fa... Voi? Siete solo? Dice, per carità, oh, io sono il vignarolo. Mia moglie è andata a Roma col caretto. Oh, io sono un povero padre di famiglia. Ma c'è solo i papalini? Sono innocente. Fate la spia? Mi faccio maraviglia. Beh, allora... Dice... Dateci ristoro. E per farci via per buona gente, gli fu pagata una moneta d'oro. E quel vecchio, tremanno de pavura, ci portò sopra il monte in d'un casale, che invece era un casino padronale, dove che ce se va in villeggiatura. Fu aperto, visitassimo le mura, e dopo aver girato per le sale, e aver visto che lì tanto er locale, quanto la posizione era sicura, fu mandato a chiamare l'antri de sotto. Furono messi lì intorno l'avamposti e poi fu fatto un piccolo complotto. E mannassimo a Roma al comitato uno per dirgli che stavamo a nascosti, sintanto che non fosse a ritornato. Dopo, Righetto, assieme a Giovannino, sortirono dal casale e perlustrorno li contorni. E siccome lì vicino scoprirono una casetta, ce marnorno tre fazioni, perché se di lì intorno se fosse visto qualche papalino, ce dassero il chi viva su al casino. Defatti, poco dopo mezzogiorno, vengono su de corsa due fazioni e dice: che li possino ammazzarli! Oh, si è vista una pattuglia dei dragoni! Si sono avanzati fino a sotto al muro, hanno dato la fuga agli cavalli e sono spariti giù per l'arco scuro. Enrichetto allora, che ebbe il sentimento che la pattuglia di ricognizione voleva dire l'annunzio del cimento, chiama Giovanni assieme alla sezione, e che c'ero pure io, e dice: sul momento va alla cassetta e pia la posizione. Annamo, e mentre stiamo chiusi dentro dice: allarmi, ce semo, arriva un battaglione. Sortimo, se mettiamo allineati saremo stati in tutto 17. E guardassimo sotto per i prati, e in fondo fra le fratte degli spini vedemo luccicare le baionette. Viva l'Italia! So papalini! Arrivati alla porta del cancello, la tromba dal segnare fuoco avanti. Se fermeno. Scavarcano il murello. E incominciano il fuoco tutti quanti. E mentre stamio lì, tutti davanti alla casetta, drento nel tinello, il vignarolo in mezzo a quel fragello stava a cantare le litania dei santi. E intanto che il nemico s'avanzava, e ogni palla sfischiava per 50 centimetri, Giovannino che strillava imperterrito in mezzo alla tempesta dice: pensate che siamo 70 e che ci avemo 6 cartucce a testa, non sparate che quando sono vicini. E intanto che veniva un battaglione se vedemo l'antri papalini che salivano su per lo stradone. Per Dio, non se sprechiamo i quadrini, eh, strillava Giovannino. Attenti, unione, non sparate che quando so vicini. Fermi, fermi per Dio, fermi, fate attenzione. E intanto che le truppe s'avanzavano, che se può dire che stiamo faccia a faccia, le palle, fio de Cristo, fulminavano. Ma quando che ci curse tanto poco che quasi gli potemo sputa in faccia, Ninetto urlò: viva l'Italia, fuoco! E lì nel meglio del combattimento, de lotta corpo a corpo da vicino, ecco Erigo fuggendo come il vento, guarda la posizione un momentino, strilla e dice: addietro, Sacramento, addietro, che ve freghino, addietro Giovannino, addietro, che restate chiusi dentro, prigionieri, de corsa, giù al casino. E lì alla meglio facessimo il quadrato e voltassimo giù per lo stradone dietro a Righetto a passo scellerato. E arrivati al casale s'agguattassimo tra le rose e le piante di limone, e accucciati lì sotto l'aspettassimo. Allora, dopo questo, i soldati, che non capirono che era una finzione, credendosi che fossimo scappati, vennero per pia la posizione. E mentre stamio tutti aridunati, li sentimio venì per lo stradone urlando come ossessi scatenati. Marichetto, che stava in ginocchione, avanti a tutti fece: attento, attento. E quando che ci stiedero davanti, Righetto, che aspettava quel momento, buttò via la berretta, fece un sarto, strillò: viva l'Italia! E corse avanti. E noi dietro gli dassimo l'assarto. Arvedecce sortì dalla piazzetta come il fuoco che uscisse ad un vulcano, preso de fronte, e il reggimento sano si mette a fuggire verso la casetta. Noi, per potergli fa la cavalletta, s'arrampicamo sopra un falso piano, e mentre li vedemio da lontano, gli andamo sotto, ca' baionetta. Ma mentre parivalli c'era poco, sangue de Dio, boom, boom, sentimo un botto e vedemo una nuvola de fuoco. E ci calò sopra l'occhi come un velo l'assassini scampanno giù de sotto, ci avevano sparato a bruciapelo. Allora quelli che restammo dritti se buttassimo giù sullo stradale, e quando se vedessimo sconfitti ritornassimo dentro nel casale. E siccome mancava il generale, fu detto: si ci danno i diritti dell'onori de guerra, stiamo zitti, sì no morimo tutti. Tanto è uguale. Allora si fece notte, e mentre stiamo io dentro, nel casale, aspettiamo gli soldati. Ci parve di sentì come un lamento. E andiamo sulla porta tutti uniti, s'affacciamo, orecchiamo per i prati. Sono i nostri. Per Dio, sono i feriti, io. Allora se buttiamo giù per prato, fra l'alberi, all'oscuro, e andiamo in traccia degli feriti. E dopo d'aver cercato dove successe il fatto, fra l'erbaccia, sotto un albero secco, fu trovato Righetto. Stava steso con le braccia spalancate, col petto insanguinato dal sangue che gli usciva dalla faccia. Mentre gli dammo l'ultimo saluto degli morti, fra l'alberi lontano, sentimo un altro che strillava «Aiuto!». Seguimmo il suono, e sotto d'un ulivo ci trovassimo steso Mantovani, in d'un lago de sangue, ancora vivo. Nel casale fu messo su un divano, e mentre gli sfilamio la giberna, ci insegnò su un fianco, con la mano, come ci avesse una ferita interna. Allora gli accostammo una lanterna sul fianco, lo scoprimo piano piano, sangue de Cristo. C'era una caverna che gli centrava un braccio sano sano. Se mettessimo tutti inginocchiati, lui con le mani s'acchiappò la gola e ci fissò con gli occhi spalancati. Fece uno sforzo, s'alzò su dal letto, come se volesse dire qualche parola, e gli cascò la testa sopra il petto. Allora quelli che erano spirati li portassimo drento alla cucina, e accanto, nella camera vicina, ci mettessimo l'antri più aggravati. E aspettando che fosse la mattina, così alla meglio furono medicati, ma senza un filo della medicina era una cosa da morì straziati. Tanto che a uno ben fasciaglie nosso de un braccio ci toccò a strappare i tocchi delle camicie che portami addosso. Ma che strazio che vede la gente che soffre, che te guarda col cuore dentro agli occhi, staglie davanti e non poter fa niente. Un passo addietro. Dopo il tradimento della scarica, appena intese il botto, Righetto e Giovannino in quel momento cascorno, sarvo ognuno a bocca sotto. Dice che allora, mentre il reggimento scappava giù per prato, 7 o 8 che li veddero, senza sentimento tornorno addietro e gli riarnorno sotto. E Giovannino, in mezzo a quel macello, sporco de sangue, intanto che menavano, cercò col petto di coprire il fratello. Ma dopo la difesa disperata, intanto che le truppe riscappavano, cascorno giù fra l'erba insanguinata. E verso notte, dice che Righetto, mentre che il suono dell'Ave Maria di Roma gli suonava l'agonia, fece «Povera mamma, benedetto!». Poi gli crebbe l'affanno drento al petto e fece «Sì, m'avrai da portar via, voglio essere seppellito a casa mia!». Fece un lamento e cascò giù. Ninetto allora lo chiamò, strillò più forte, non rispose, lo prese per la mano, era gelata, il gelo della morte. Gli diede un bacio e tartagliando a stento, sperando d'essere inteso da lontano, strillò «M'è morto Enrico in sto momento!». E da lontano si sentì in sussurro d'altre voci «M'è morto mio fratello!». Strillò Ninetto e dopo fece «Io pure, sento che m'è morto e vado a rivederlo». Intanto che altre voci lì, all'oscuro, gli parlavano senza di vederlo, strillò «Se camperete, ve scongiuro, dice, de facce seppellì a groppello». E quando che le forze gli mancorno, che lui se crese all'ultimi momenti, strillò «Viva l'Italia!». Intorno, intorno, gli risposero e fu l'ultimo strillo. Poi sentesero ancora altri lamenti e dopo tutto ritornò tranquillo. E noi, che si aspettammo ogni momento la truppa, non vedendo più nessuno, all'arba de comun consentimento fu deciso de sciogliese. Qualcuno rimase nel casale chiuso dentro, con i feriti, e de noi altri, ognuno, dopo che s'approvò lo scioglimento, se sbandassimo tutti. Qualcheduno fu preso a Roma, a piazza Barberina. L'antri, sperduti in braccio della sorte, agnedero a schizzare per la Sabina. Li più se riformorno in carovana, passorno fiume, presero le corte drento ali boschi e agnedero a Mentana.